I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Oggi, salvo sorprese, il governo darà vita alla riforma delle banche popolari. Un riassetto, come si dice, della governance, cioè del sistema di governo interno, di un importante settore del credito italiano. È da anni che la BCE, le autorità europee e naturalmente anche la Banca d'Italia chiedono di cambiare il sistema antiquato e paralizzante del una testa, un voto, indipendentemente dalle azioni che si possiedono. Ora sembra arrivata la volta buona, addirittura il governo parla di un decreto, fatto che ha suscitato le polemiche dei detrattori che preferirebbero un disegno di legge perché, dicono, in 60 giorni le banche non riescono a recepire le modifiche. È pur vero però che altre volte si è presentata con disegno di legge la riforma ed è finita regolarmente su binario morto. Ora si dovrebbe arrivare a razionalizzare il settore delle 70 banche popolari e non è ancora chiaro in verità se saranno coinvolte anche le 400 banche di credito cooperativo. Banche popolari che finora non hanno mai potuto gestire con fluidità scelte straordinarie come gli aumenti di capitali o le fusioni, perché questo tipo di azioni richiedono una maggioranza qualificata nelle assemblee. La riforma quindi dovrebbe aprire anche un mercato con prospettive di fusione, di accorpamento e quindi di maggiore efficienza per un settore cruciale per il rilancio dell'economia italiana. Non a caso ieri Piazza Affari brindava, i titoli bancari del comparto hanno segnato addirittura rialzi medi del 10%, portando l'indice di borsa a chiudere con un più 1,17%. Sono stati forti gli acquisti su Biper, UbiBanca, Banco Popolare, Banca Popolare di Milano e gli operatori non escludono che questa riforma possa rendere possibile anche un'azione rapida di consolidamento del Monte dei Paschi di Siena e di Carige, le due banche nel mirino degli stress test della BCE. Ma non tutti possono festeggiare. Anche tra le popolari, solo quelle che già hanno realizzato operazioni di efficienza e razionalizzazione sono pronte per la sfida di questo nuovo mercato. Per le altre, invece, il futuro non può che rivelarsi una prospettiva da prede. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alessandro Plateroti. Il conto alla rovescia è cominciato. Entro le prossime 48 ore la BCE dovrà decidere se avviare il cosiddetto quantitative easing, un rallentamento quantitativo inventato dagli americani per rianimare e rilanciare la loro economia. In America ha funzionato, in Giappone così e così, ma in generale gli esperti si aspettano che grazie alla quantità di miliardi che saranno immessi sul mercato, si parla di circa 550 miliardi, l'economia stagnante europea potrà riprendersi anche nelle parti quelle più doloranti o almeno più sofferenti, ovvero l'Italia, la Spagna, la Grecia, il Portogallo. In pratica di che cosa si tratta? Invece di stampare moneta e darla agli stati attraverso le aste dei titoli di Stato, la Banca Centrale Europea che cosa farà? Li comprerà direttamente in asta una parte, ma potrà comprarli anche e soprattutto sul mercato secondario, laddove cioè sono le banche e i grandi intermediari finanziari a vendere i loro titoli di Stato. Sarà sufficiente questo per far ripartire l'economia? Certamente, guardando alle aspettative del momento, sarà un passo importante soprattutto per far vedere che l'Europa è in grado di prendere delle decisioni insieme, ma gran parte della responsabilità sulla ripartenza dell'economia cadrà sulle banche, che in ultima analisi saranno proprio quelle che beneficeranno di più del cosiddetto quantitative easing. Come utilizzeranno questi soldi e chi prenderà il rischio? Per il momento quello che sappiamo è che l'obiettivo finale è che queste banche prestino poi soldi alle imprese e alle famiglie in modo da far ripartire l'economia, ma il rischio su chi cade? Per ora quello che si sa è che saranno le banche centrali nazionali, ovvero la Banca d'Italia, la Banca di Francia, la Banca di Portogallo e la Banca di Spagna, a comprare questi titoli e poi a rivenderli. Ma certamente il vero test sarà quello sulle imprese e le famiglie, quelle cioè che negli ultimi anni hanno sofferto di più la stretta del credito. La speranza è che l'Europa riparta da qua. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.